il Vangelo come una bella canzone d'amore. Tempo fa leggevo in una pubblicità l'invito, rivolto a tutte le persone, a partecipare ad un festival di musica cristiana. Immediatamente, per associazione di idee, la mia mente ha ricordato un brano della Scrittura. Eccolo, odì loro così, dice il Signore l'Eterno, com è vero che io vivo, quelli che stanno fra quelle rovine periranno di spada, quelli che sono in aperta campagna li darò in pasto alle bestie e quelli che sono nelle fortezze e nelle caverne moriranno di peste. Ridurrò il paese a una desolazione e a un deserto, l'orgoglio della sua forza verrà meno e i monti di Israele saranno così desolati che nessuno più vi passerà. Riconosceranno che io sono l'Eterno, quando avrò ridotto il paese a una desolazione e a un deserto per tutte le abominazioni che hanno commesso. Quanto a te, figlio d'uomo, i figli del tuo popolo parlano di te presso le mura e sulle porte delle case. Si parlano l'un l'altro, dicendo ognuno al proprio fratello, venite a sentire qual è la parola che viene dall'Eterno. Così vengono da te come fa la gente, si siedono davanti a te come il mio popolo e ascoltano le tue parole ma non le mettono in pratica. Con la loro bocca infatti mostrano tanto amore, ma il loro cuore va dietro al loro ingiusto guadagno. Ecco, tu sei per loro come una canzone d'amore di uno che ha una bella voce e sa suonare bene uno strumento. Essi ascoltano le tue parole, ma non le mettono in pratica. Ma quando la cosa avverrà, ed ecco sta per avvenire, riconosceranno che in mezzo a loro ci è stato un profeta. Ezechiele 33:30-33. Il profeta Ezechiele era un sacerdote, discendente di Aronne. Probabilmente trascorse la sua infanzia e l'adolescenza a Gerusalemme, nel Tempio. Quando venne condotto lontano dal paese natale, Ezechiele non era più un fanciullo, ma non aveva ancora raggiunto l'età nella quale i Leviti esercitavano le loro funzioni sacerdotali. Il suo ministero di profeta cominciò quando aveva 30 anni, età in cui i Leviti assumevano l'incarico. Gli anziani riconoscevano in lui un uomo che parlava da parte di Dio. Come molti profeti, egli annunziava cose nuove, belle, interessanti, meravigliose. Per questo la folla lo ascoltava volentieri, parlava di lui e di quello che egli diceva. Anche oggi vi sono persone che esercitano il ministero di profeta. Sono tutti coloro che parlano del Vangelo di Gesù, della sua nascita, della sua morte, della sua resurrezione, della sua glorificazione, del suo ritorno. Le persone ascoltano volentieri il Vangelo perché è bello, interessante, parla di pace. E, per chi osa andare più in profondità, prospetta il successo nella vita. È normale quindi che migliaia di persone si radunino per cantare, lodare e che dicano andiamo a sentire cosa ha da dire Dio. Nel brano che abbiamo letto, è l'Eterno che si sta rivolgendo ad Ezechiele. Si lamenta con il profeta, contesta il popolo di Israele rivolgendo loro delle parole dure. Egli parla di ridurre il paese a una desolazione e a un deserto. Nonostante il ministero profetico d'Ezechiele suonasse anche di tono severo e di condanna, il popolo continuava ad ascoltarlo volentieri. Ascoltava, ma non metteva in pratica ciò che udiva. L'Eterno avverte il profeta che il suo messaggio sarebbe stato, per chi lo udiva, pari ad una persona che avesse una bella voce che sapesse suonare e cantasse una bella canzone d'amore. Cosa succede a chi sa suonare bene e ha una bella voce? Che cosa ha una canzone d'amore di particolare? Quale effetto produce negli ascoltatori? È sufficiente guardarsi attorno. Coloro che hanno una bella voce e sanno produrre una bella musica attirano le folle, sono fonte di guadagno. Per questo anche per i concerti di musica cristiana si cerca chi ha una bella voce, chi sia garanzia, con le proprie doti. Per uno spettacolo gradevole, non importa che il cantante sia un figlio di Dio oppure no, l'importante è che lo spettacolo sia gradito, che chi canta abbia una voce gradevole al pubblico, e con lo stesso intento si scelgono anche i musicisti. Non importa valutare il tutto nell'ottica di Dio perché, tanto, fanno parte della giuria personalità dello spettacolo, della politica e dell'imprenditoria. il mondo che giudica i valori spirituali. Com'è possibile? Non è forse l'uomo spirituale che giudica ad ogni cosa? Ma l'importante è fare successo. L'importante sono gli applausi. Così i giovani hanno i loro cantanti preferiti, i loro modelli basati sulla bella voce e su chi compone della buona musica. Se poi ad una bella voce si uniscono delle parole che parlano di amore, allora si è raggiunto il massimo. Ma cosa succede? Dopo aver udito la bella voce, dopo aver gustato le parole d'amore, dopo essere stati elettrizzati dall'atmosfera, ognuno se ne torna a casa sua, con i propri problemi, con i propri pesi, pienamente insoddisfatti. E, per questo, che i giovani e meno giovani si drogano, che le coppie si dividono, che aumentano gli suicidi e gli omicidi, perché una bella voce e delle belle parole d'amore, sebbene espresse con una bella musica, non producono alcun cambiamento. Nessuno dopo il concerto si sente in obbligo di dover cambiare. Nessuno si sente coinvolto nel messaggio. Nessuno deve rendere conto ad altri. Ecco cosa sta dicendo l'Eterno al profeta. Le tue parole non producono alcun cambiamento. Ciò che dici sono parole rivolte al vento, come parlare a dei sordi. Anche oggi, per la maggior parte delle persone, il Vangelo è udito e ricevuto come una bella canzone, cantata da chi ha una bella voce. Esso non produce cambiamenti. Ho chiesto ad una giovane ragazza di 30 anni, che ha vissuto con diversi uomini e che attualmente convive senza essere sposata, perché dichiarasse d'amare Dio. Le ho chiesto come potesse sostenere tale opinione quando Gesù ha posto come condizione per amarlo di non commettere fornicazione e adulterio. Mi rispose che lei sentiva d'amare Dio e per questo il suo comportamento sbagliato non aveva importanza. E proprio questo? L'errore di molti. Fidarsi dei propri sentimenti e continuare indisturbati sul proprio cammino. Ritenersi in fondo delle brave persone, anziché permettere alla parola di Dio di condizionare il loro modo di vivere e di pensare. Il Vangelo è la potenza di Dio, non solo per la salvezza dalla perdizione, ma anche per riuscire a vivere conformemente al volere di Dio. Non tutti hanno capito che il Vangelo non deve essere solo ascoltato, ma creduto e vissuto. Se il Vangelo non produce in te nulla, se non ti porta a chiedere il perdono dei tuoi peccati, se il messaggio di Cristo non ti porta la pace, la gioia di sapere di essere un figlio di Dio, se non hai ricevuto lo Spirito Santo, allora per te è solo una bella canzone eseguita da chi ha una bella voce e sa suonare bene. Ascoltare la parola di Dio, continuando a vivere con gli stessi problemi e continuando a peccare come prima, significa essersi limitati ad udirla. Se in questo momento ti senti felice, ma non hai determinato nel tuo cuore di seguire Cristo, allora sei stato emotivamente toccato. Il tuo cuore, però, è lontano da Dio. Devi decidere di vivere per Dio, di lasciare i tuoi peccati per conformarti al volere di Dio. Forse tu confidi sul fatto di aver fede. Forse le cose di Dio ti attirano, ma il volere di Dio non è che noi abbiamo fede, perché la fede non ha mai salvato nessuno. L'umanità è piena di persone che hanno fede. Forse, anche più di te e di me, Satana stesso crede in Dio. Egli è un credente. Ma, nonostante tutto, rimane il Satana, cioè il nemico acerrimo di Dio. L'importante è riporre la fede nel posto giusto. Se non so nuotare e cado nel fiume, posso avere una fede incrollabile che un pezzo di legno mi tenga a galla, ma se questo è troppo piccolo, la mia fede non mi salverà. Se sto per cadere da un albero, posso aggrapparmi con tutta la fede che ho ad un ramo, ma se il ramo non è in grado di sorreggere il mio peso, cadrò inesorabilmente a terra. La fede di per sé non basta. Essa deve essere giusta, intelligente. Per essere una fede efficace, essa deve essere operante. Posso avere fede che un tronco giusto mi tenga a galla, che il ramo giusto mi sorregga, ma se non compio l'atto di afferrare il tronco o il ramo, sono perduto. Devo quindi compiere l'atto di afferrare l'oggetto che mi salva. Così è pure della fede in Gesù Cristo. Tu puoi sapere e credere che Gesù è morto per te, che ha dato la sua vita per perdonare tutti i tuoi peccati, passati, presenti, futuri. Se non compi l'atto mediante il quale ti appropri dell'opera di Cristo, tu sei come colui che ascolta chi ha una bella voce e sa suonare bene. Tu puoi andare anche in estasi per qualche esperienza spirituale, ma se alla fine della tua esperienza emotiva ti trovi ancora precisamente dove eri prima che Cristo ti toccasse con il suo spirito, nulla ti giova. Anzi, avrai aggravato la tua situazione, perché sarai portato a cercare l'esperienza spirituale piuttosto che il tuo Creatore. Se sei un figlio di Dio, sappi che il pericolo di ascoltare la parola di Dio come fosse una bella canzone cantata da uno che ha una bella voce e sa suonare bene, vale anche per te. Possiamo sapere esattamente ciò che Gesù Cristo si aspetta da noi, ma se non osiamo mettere in pratica per fede la volontà di Gesù, abbiamo una fede morta, una fede inutile. Perdonare, soffrire, servire, combattere, testimoniare, sono comportamenti che testimoniano l'aver preso sul serio la volontà di Dio. Solo così non cadremo nel terribile giudizio di Dio di essere stati solo degli ascoltatori e non dei facitori. Dobbiamo rimarcare che l'ubbidienza alla volontà di Dio è indispensabile per piacere a Dio. Dobbiamo sottolineare che senza una condotta santa non vi è salvezza. Ora le opere della carne sono manifeste e sono adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, magia, inimicizie, contese, gelosie, ire, risse, divisioni, sette, invidie, omicidi, ubriachezze, diottonerie e cose simili a queste, circa le quali vi prevengo, come vi ho già detto prima, che coloro che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio. Galati 5, 19-20. O fate dunque morire le vostre membra che sono sulla terra, fornicazioni, impurità, passioni, desideri cattivi e avidità, che è idolatria. Per queste cose l'ira di Dio viene sui figli della disubbidienza. Colossesi 3, 5 a 6. O non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi ingannate. Né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né gli omosessuali, né i ladri, né gli avari, né gli ubriaconi, né gli oltraggiatori, né i rapinatori erediteranno il regno di Dio. 1 Corinzi 6, 9-10. Dobbiamo abbandonare il falso idealismo cristiano. Dobbiamo rinnegare l'idea romantica che si possa essere cristiani e avere il meglio dal mondo. Leggiamo nel Vangelo di Giovanni, tuttavia, anche tra i capi, molti credettero in lui Gesù, ma a motivo dei farisei non lo confessavano, per non essere espulsi dalla sinagoga perché amavano la gloria degli uomini più della gloria di Dio. Giovanni 12, 42-43. Anche oggi vi sono persone che professano di credere in Cristo, ma poi scendono a compromessi con la loro fede per essere accettati dagli altri. Paolo disse, «Ma quanto a me non avvenga mai che io mi vanti all'infuori della croce del Signor nostro Gesù Cristo, per la quale il mondo è crocifisso a me e io al mondo». Galati 6 e 14. Paolo faceva riferimento a se stesso. Egli aveva un solo obiettivo. Ciò che lo circondava aveva perso il valore che gli aveva attribuito, prima di conoscere Gesù Cristo. Egli stava realizzando una vita nuova, obiettivi nuovi. Le cose vecchie erano passate, tutto era diventato nuovo. Sì. La vita di un cristiano cambia se non cambia, non è un cristiano. È vero che non è a motivo delle sue opere che sarà ricompensato, ma lo sarà secondo ciò che avrà operato. Per questo egli vivrà per servire, per ospitare, donare, porterà i pesi degli altri, farà del bene a tutti, cercherà le cose che contribuiscono alla reciproca edificazione. Pregherà per quelli che lo perseguitano e lo disprezzano, sopporterà la debolezza dei deboli, annuncerà senza compromessi Gesù Cristo. La vita di un cristiano deve cambiare se non cambia. Ha una semplice convinzione mentale, ha accolto il volere di Dio come una bella canzone cantata da chi ha una bella voce e sa suonare bene. Per lui vi è un triste futuro, senza premi, senza corone. Sarà salvato come un tizzone dal fuoco. Al ritorno di Cristo sarò svergognato. È possibile ignorare tale avvertimento, ma quando la cosa avverrà, ed ecco sta per avvenire, riconosceranno che in mezzo a loro ci è stato un profeta. Ottobre 1995. Ellero.